Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day's but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti. Questo era Leonard Cohen che ci invita come sempre ad ascoltare. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, un programma musicale dedicato non solo alla musica, ma in generale al mondo dei suoni, alla pratica dell'ascolto e a tutte le dimensioni che incontrano questi mondi anche tangenzialmente. Oggi siamo con Lorenzo Zaffaroni, vecchio amico, vecchia conoscenza, che è piombato sui nostri schermi, nelle nostre orecchie, per parlare di musica elettronica. Quindi intanto chiedo a Lorenzo se vuole presentarsi e raccontarci qualcosa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Lorenzo Zaffaroni, sono un amico di Lorenzo, il presentatore, e sono un ricercatore in sociologia all'Università di Milano Bicocca. Oggi sono molto felice di essere qui perché è un'occasione per parlare di diciamo l'incrocio tra i miei interessi di ricerca e una mia passione, e la mia ricerca verte sugli immaginari sociali e le forme di produzione artistica, mentre la mia passione è quella della musica elettronica, che devo dire condividiamo. Sì, decisamente, anzi è stata una delle persone che mi hanno introdotto a questo mondo di cui parliamo oggi da tanti punti di vista, da un punto di vista musicale, uno sociologico, uno anche storico. Un po' il filo conduttore è sempre quello dell'idea della chimera, che segue sempre questo programma, e quindi degli immaginari che vengono aperti da uno spazio d'ascolto. Per quanto riguarda la musica elettronica, noi partiremo dalle origini, che vengono situate molto chiaramente da un punto di vista geografico e storico, quindi siamo a Detroit negli anni Ottanta. E un discorso importante da fare è quello che oggi si tende a dire techno per parlare di musica elettronica in generale, senza invece rendersi conto che il genere della techno è un genere molto specifico, molto codificato, che appunto ha delle origini molto precise, che sono anche molto importanti da un punto di vista sociopolitico. Oggi che la techno in particolare e la musica elettronica in generale è stata appropriata in un certo senso, è diventata mainstream in tanti circoli, quello che ci siamo detti noi parlando, riflettendo, è appunto l'importanza di andare a riconoscere come è nata e andare a riconoscere quegli spazi di apertura, quei mondi che venivano aperti con una musica che è totalmente rivoluzionaria. Allora partiamo ascoltando una traccia, Strings of Life di Derrick May. Costruire la storia della techno, ci siamo detti quando ci siamo incontrati, serve contestualizzarla, perché non tutti associano il genere, non tutti associano la techno alla città di Detroit e la città di Detroit alla nascita della musica techno come la conosciamo. Per cui abbiamo pensato di mantenere la complessità, cioè tenere aperti i dibattiti che caratterizzano, no, la storia culturale della techno di Detroit, e quindi discutere delle radici e delle critiche sociali di cui si fa portatrice la musica techno. La storiografia della techno solitamente parte dalla rivendicazione dei ragazzi e delle ragazze che partecipano a feste dei sobborghi di Detroit, ma questa storia è parziale, nel senso che va contestualizzata all'interno di immaginari e in modo più ampio la storia culturale americana e afroamericana in particolare. Come da programma Club Chimera, oltre a parlare della storia e della storiografia, quello che ci è piaciuto anche vedere qual è l'immaginario che viene aperto dalla musica techno. E è molto interessante perché nei primi momenti di ricerca ci siamo resi conto che non è neanche una forzatura, ma che in questo tipo di musica, in questo genere, si parla sempre e tutto il tempo di immaginari, che quello che stanno facendo gli artisti è non solo creare degli strumenti di rivendicazione sociale, ma anche attraverso questi strumenti andare a costruire dei mondi nuovi e delle utopie, che sarà un po' il filo conduttore di questa puntata. C'è un critico di musica britannico-camerunense che si chiama Kodwo Eshun, che nel libro More Brilliant Than the Sun, Adventures in Sonic Fiction, utilizza proprio il termine di sonic fiction, finzione sonora, che a noi è piaciuto cambiare un po' come termine per parlare più di immaginario sonoro. Con sonic fiction lui si riferisce a sostanzialmente qualsiasi nota, qualsiasi aforismo, qualsiasi frammento di suono, qualsiasi anche breve pezzo musicale e anche tutti i gesti performativi che lo accompagnano. Un altro studioso, Holger, nel book Sonic Fiction, dice che dove uno può trovare dei suoni, uno può sempre trovare anche degli immaginari. Ed è molto importante quest'idea dell'immaginario, perché appunto ha guidato tutta la formazione della musica elettronica e soprattutto la sua creazione dalla base della cultura afroamericana. Per parlare degli immaginari sonici, degli immaginari sonori su cui viene costruito questo genere, ci siamo riferiti a un documentario importantissimo e interessantissimo chiamato The Last Angel of History, l'ultimo angelo della storia. È un documentario del 96 diretto da John Acomfra, scritto e ricercato, sviluppato da Edward George. Entrambi sono componenti del Black Audio Film Collective, un collettivo multimediale di artisti neri nella Gran Bretagna. Questo documentario è un altro esempio di docu-fiction, quindi va a ricostruire una storia ben precisa, però attraverso un racconto di finzione. Allora vi faccio ascoltare l'inizio del documentario prima di spiegarvi qual è la finzione che ci viene a raccontare. After the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? We came across the story of a blues man from the 1930s, a guy called Robert Johnson. Now, the story goes that Robert Johnson sold his soul to the devil at the crossroads in the Deep South. He sold his soul, and in return, he was given the secret of a black technology, a black secret technology that we know to be now as the blues. The blues begat jazz, the blues begat soul, the blues begat hip-hop, the blues begat R&B. Now, flash forward 200 years into the future. Next figure, another hoodlum, another bad boy scavenger poet figure. He's called a data thief. 200 years into the allora, future. Quello che ci è stato raccontato da Edward George parte negli anni 30. Nel momento in cui Robert Johnson, grande musicista, si narra che abbia venduto l'anima al diavolo all'incrocio con il profondo sud per ricevere in cambio una tecnologia nera, il blues. Il blues che poi è diventato jazz, che poi è diventato soul, che poi è diventato hip hop, che poi è diventato R&B. Ci aggiungiamo noi il blues che poi è diventato techno. Questo documentario si immagina un ladro di dati ambientato nel futuro, un ladro che sta cercando le connessioni tra la musica, tra lo spazio e tra il futuro, e che nel farlo traccia uno sviluppo di una cultura panafricana, quindi che interessa il continente africano e tutte le sue diaspore, una cultura fortemente radicata in un'idea fantascientifica di un'utopia. Questo tipo di cultura si rifà alle correnti afrofuturiste che tra gli anni 50, 60, 70 con le lotte di decolonizzazione si stavano diffondendo nel mondo africano e afrodiscendente. L'afrofuturismo va a immaginare la soggettività africana, a ricrearla liberandosi dello sguardo coloniale, dello sguardo bianco, e va a creare una metafora per l'alienazione della diaspora afrodiscendente. Secondo queste correnti afrofuturiste, la soggettività africana discende direttamente dagli alieni che per primi sono arrivati sulla Terra, appunto nel continente africano, che poi hanno vissuto una forte diaspora, che sono stati schiavizzati e hanno vissuto delle come si dice, sono stati spostati forzatamente per tutto il mondo, e degli alieni, quindi le persone afrodiscendenti, che saranno i primi a ritornare verso lo spazio. Questa linea narrativa, questa finzione utopica, lavora sia nel passato che nel futuro. Ci viene raccontato nel documentario, per esempio, che il tamburo, uno strumento musicale, è in realtà la prima tecnologia afrofuturista. Una tecnologia, infatti, che ha permesso di comunicare e che ancora adesso permette di comunicare tra la diaspora africana viaggiando non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Una tecnologia che è stata portata tramite l'acqua in tutto il mondo e in cui il cui suono continua a ricoprire la distanza tra il mondo vecchio e il mondo nuovo. Quello che succede, quindi, quello che ci viene raccontato, è che la nascita della musica techno si basa proprio su queste storie. Il documentario intervista non solo musicisti, ma anche critici, anche astronauti, anche scrittori, e soprattutto scrittori di fantascienza. Ci viene detto che la linea tra la realtà sociale e la fantascienza è un'illusione ottica. Per capire questo discorso basta riflettere su quello che è la fantascienza da un punto di vista politico e quella che è stata l'esperienza afroamericana in quegli anni. Ci viene detto nel documentario che non era per niente difficile per una persona afrodiscendente negli Stati Uniti immaginare le realtà distopiche che venivano raccontate nei libri fantascientifici, perché era quello che loro vivevano nella propria quotidianità. Allora, nel documentario, prima di arrivare alla musica techno, viene tracciata una protostoria, diciamo, da un punto di vista musicale. Vengono individuate due precise culture musicali che hanno fatto da apripista per quello che è stato la musica techno. Stiamo riferendoci a Parliament e Funkadelic, due band in realtà composte dalle stesse persone, la cui figura centrale era George Clinton, che facevano musica funk, ma una musica funk, anche questa fortemente ispirata da un'idea afrofuturista. Basta pensare al loro album più importante, Mothership Connection, la cui copertina rappresenta un'astronave da cui non si capisce se sta entrando o uscendo un uomo afroamericano. E i Parliament, i Funkadelic, facendo funk in quegli anni, erano incredibili ed erano fonte di ispirazione per tutti i giovani musicisti, sia per appunto il loro immaginario, ma anche proprio per l'utilizzo che loro facevano degli strumenti elettronici nella propria musica e dei mega concerti in cui raccontavano queste storie utopiche, queste storie afrofuturiste, con degli immaginari sonici che si rifacevano non solo a quello che veniva cantato, quello che veniva suonato, ma anche appunto a tutti, a tutta la performance che ci stava in giorno, che ci stava intorno. Allora, il critico a cui mi sono riferito prima, Kod Voeshun, va a dirci che Mothership Connection, la navicella spaziale di connessione dell'album più famoso dei Parliament, è un punto di legame tra l'Africa come un continente perduto dalla soggettività afroamericana e l'Africa come un continente alieno che verrà ritrovato nel futuro. L'altro punto di riferimento importantissimo invece è Sun Ra. Qua si tratta di un musicista jazz che con la sua orchestra ha rivoluzionato il mondo musicale a partire dagli anni 70, di cui abbiamo appena sentito Tapestry from an Asteroid, la musichetta jazz che ci ha accompagnato finora. È stato un musicista assolutamente pazzo che ha preso il jazz, l'ha portato per mille strade, dal ragtime allo swing al rugby, al reggae, e che è stato ammirato da tantissimi, anche dalle avanguardie europee. E anche lui fa tutto un discorso, una pratica musicale che vuole creare conoscenza, ma una conoscenza afrocentrica, che quindi rifiuta lo sguardo bianco, razionale, e crea un'idea non lineare di spazio, di tempo, che va a recuperare il passato dell'Africa e il futuro alieno al quale si vuole ritornare. Quindi questo è un po' l'humus culturale, l'humus musicale e l'humus di immaginario al quale ci dobbiamo riferire nel momento in cui vogliamo iniziare a parlare di musica techno. Passo la palla al nostro sociologo dopo aver ascoltato un altro breve estratto musicale che ci racconti invece cosa stava succedendo da un punto di vista sociopolitico e storico a Detroit in quegli anni. Ricordiamo, siamo quindi negli anni 80. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you Oh, eccoci, arriviamo a Detroit, questa era What's Going On di Marvin Gaye e ci serve per affrontare il clima culturale, il clima di tensioni razziali che faceva da sfondo la vita quotidiana degli afroamericani a Detroit. Ricordiamo che Marvin Gaye è entrato nella scuderia di Motown, che era una casa, appunto una casa di produzione musicale di Detroit a partire dagli anni 50. C'era stato per tanti anni fino a quando Motown si è spostata a Los Angeles. E Motown a Detroit aveva aiutato a costruire un suono che poi è stato definito come il suono di Detroit, che è entrato a far parte proprio dell'identità culturale della città e che nel 72, quando Motown è stata ritrasferita, cioè è stata trasferita la prima volta a Los Angeles, un critico come Smith ha identificato proprio una perdita, un completo vuoto, lo stesso vuoto che identificavi tu da un punto di vista proprio anche culturale di immaginari. E dal punto di vista proprio socioculturale, Detroit è una città caratterizzata da una storia di industrializzazione e di un, diciamo, fallimento post-industriale, perché è stata innanzitutto la sede delle tre grandi industrie automobilistiche americane, General Motors, Ford e Chrysler. Il Fordismo è un termine che identifica proprio le modalità di produzione che sono nate all'interno della fabbrica Ford ed è un tipo di produttività legato alla registrazione, al monitoraggio di qualsiasi attività produttiva, no? E questo proprio è stato ciò a cui la comunità afroamericana che lavorava in quelle fabbriche è stato sottoposto questo genere di lavoro. Il problema di questa industria è che diciamo la limitata diversificazione dell'economia di Detroit ha fatto sì che la città è stata colpita duramente da una crisi economica post anni 50, per cui tutte le industrie che supportavano appunto l'economia sono state dislocate e molte sono state chiuse. Quindi se già Detroit era una città segregata dal punto di vista razziale, con i bianchi che stavano al centro e le comunità afroamericane nei sobborghi, allora sempre di più con questo spostamento delle fabbriche abbiamo una sorta di dispersione, no, della forza culturale della comunità. In particolare due eventi segnano la cultura di Detroit. Nel 1943 c'è il primo race riot, le prime lotte appunto che coinvolgono un grandissimo numero di poliziotti che sedano queste rivolte nei sobborghi, ma soprattutto nel 67, ed è un evento che Jeff Mills, che poi ritroveremo come un personaggio fondamentale della storia della techno, descrive proprio come un momento di completa alienazione, di completa sofferenza, perché proprio il clima poliziesco era tale per cui non si poteva uscire di casa, dovevano tenere le tende chiuse per evitare che i cecchini dell'esercito americano, chiamati per sedare le rivolte, attaccassero appunto la casa. Allora la famiglia di Jeff Mills cosa decide di fare? Decide di fare un viaggio in Canada per appunto uscire da questa situazione e finiscono, cioè come dire, l'obiettivo era una mostra sul futurismo. E Jeff Mills proprio ricorda in un'intervista proprio questo contrasto tra la mancanza proprio di luce, no? Stare in casa in estate col caldo a Detroit e questo immaginario di futuro, di rinnovamento, di alterità, che è proprio tipico della definizione di utopia, no? Perché adesso etimologicamente utopia significa un luogo altrove e questo altrove lui l'ha trovato in quel viaggio. Ecco, questo è un po' per caratterizzare la dimensione appunto urbanistica. Da un punto di vista invece appunto negli anni, con gli anni 60 e gli anni 70, questa progressiva deindustrializzazione, questa perdita di posti di lavoro ha creato un vuoto che, accompagnato dal vuoto di Motown, ha portato sempre più giovani a chiedersi qual è la nostra identità culturale, qual è la nostra identità musicale ora che Motown non caratterizza più la nostra, non descrive più la nostra esperienza. Motown, tra l'altro, era fondamentale anche per unire la lotta, cioè rappresentava le lotte nei testi come quello di Marvin Gaye, ma era anche una forma di aggregazione che univa, metteva in rete le persone. E questo spazio, ve lo vedremo tra poco, è stato riempito da tre personaggi di uno di questi sobborghi, che è Belleville, che era poco fuori Detroit, e questi tre personaggi vengono definiti come i fondatori, i padri fondatori del genere. Ecco, in questo l'immaginario di cui parlavi, che riempie il vuoto, è offerto dalla fantascienza. Il libro Future Shock, per esempio, descrive un desiderio di fuga da questi ambienti urbani e soprattutto un desiderio di fuga legato all'uso della tecnologia. Quindi la tecnologia è il punto di partenza per parlare di musica techno di Detroit. Prima di appunto farti descrivere un po' le caratteristiche, dobbiamo dire che il nesso tra appunto questi desideri di fuga dei giovani e la produzione di musica che noi adesso conosciamo come Detroit Techno è la accessibilità degli strumenti, dei synth, dei campionatori, che sono parte integrante della struttura proprio musicale della techno di Detroit. E questo direi che è il passaggio perfetto per iniziare a parlare di che cos'è la musica techno. Ancora prima mi aggancio al discorso sulla tecnologia per ricordare che la possibilità di letteralmente appropriarsi degli strumenti di produzione musicale è stata fondamentale per non solo per la soggettività afroamericana di cui stiamo parlando in questo momento, dalla quale a Detroit negli anni '80 nasce la musica techno, ma per tantissime persone, tantissimi gruppi oppressi. È importantissimo ricordare che ancora prima che nasca la techno negli anni '80 ci sono state un sacco di sperimentazioni tecnologiche, musicali, e che molto spesso queste sperimentazioni sono state guidate da delle pioniere donne, anche in Italia. A riguardo vi suggerisco il documentario Sisters with Transmitters, che racconta proprio le pioniere che hanno potuto finalmente entrare nel mondo musicale avendo a disposizione synth, drum machine, tutto un apparato tecnologico, e quindi riuscendo a mettere piede in questo mondo quando prima erano assolutamente escluse da ruoli come direzione d'orchestra, compositrice. Quindi la tecnologia crea un mondo altro ancora, quindi questo immaginario di un mondo utopico che apre spazi laddove la tradizione musicale e artistica li precludeva. Quindi ritorniamo, a proposito di tecnologia, al nostro documentario The Last Angel of History, per sentire la voce diretta dell'intervistato Juan Atkins, che è stato poi uno dei pionieri della techno, che ci racconta brevemente cosa sta succedendo. The guy behind me to my right here is Mad Mike Banks from Underground Resistance, one of the pinnacle techno forces in Detroit at the very moment. We perpetuate the technological revolution through music. Music being something that people listen to and it opens, that's the first thing they hear. If they're going to be ready for a technological future, I think music better prepares them, technological music better prepares them for the future. I think the original philosophy of the music that we were doing, the Detroit techno, whatever it's called now, however it's been caught up, I think really, honestly, it stems from the fact that Juan Atkins, he had an idea, you know, that he wanted to infiltrate the music industry as a black artist doing electronic music. At the time, there were no black artists really doing it, other than George Clinton, the Parliament Funkadelic Age. There was a couple other people, there was George Duke, Stanley Clark, that were experimenting with it every now and then. Quello che ci è stato raccontato da Juan Atkins è che prima ha parlato di Underground Resistance, uno dei più importanti collettivi di musica techno di cui Lorenzo ci parlerà tra poco, e poi ha detto che quello che loro stavano facendo era perpetuare una rivoluzione tecnologica tramite una musica tecnologica. Subito dopo invece abbiamo sentito Derrick May, un altro dei pionieri della musica techno di Detroit, che riferendosi a Juan Atkins ci dice che quello che lui ha fatto è stato infiltrarsi come artista nero in un mondo dove gli artisti neri non erano ancora entrati, quindi nel mondo musicale. In realtà ci racconta che qualcuno l'aveva fatto e ci parla nuovamente di George Clinton di Parliament Funkadelic. In un altro momento del documentario Derrick May spiega la musica techno come un'unione tra George Clinton e Kraftwerk. Ci dice letteralmente: se George Clinton e Kraftwerk si incontrassero in ascensore, avrebbero creato loro la musica techno. Per i Kraftwerk, di cui iniziamo adesso mentre parlo ad ascoltare la traccia Man Machine, ci stiamo riferendo a una band tedesca, europea, che già da prima, già negli anni 70, aveva fortemente sperimentato con l'utilizzo della tecnologia nella musica e quindi sono stati tra i pionieri della musica elettronica e un genere che adesso possiamo quasi definire proto-techno. Vengono definiti synth pop, electronic pop. Quello che loro fanno utilizzando la tecnologia e che viene poi ripreso dalla musica techno è creare una musica completamente nuova, basata su una modularità, un minimalismo che si svolge per sequenze. Su questo vorrei fare un piccolo ragionamento riguardo alla critica che viene fatta ogni tanto parlando della musica techno, della musica elettronica in generale, quando la gente dice è tutto uguale, è tutto ripetitivo. Io non ci avevo mai pensato prima, però in effetti forse è proprio questa ripetitività che ha permesso di costruire dei mondi altri, di costruire degli immaginari, questo corpo che in uno spazio sociale con altre persone si muove seguendo sempre lo stesso ritmo, seguendo sempre le stesse sequenze e che quindi permette alla mente, all'emozione di viaggiare altrove. Altre influenze della musica di Kraftwerk riguardano i suoni, l'utilizzo quindi di timbri artificiali che ricordano una visione futurista che, come abbiamo già detto molte volte, è poi stata riappropriata dalla musica techno, e anche una filosofia di interconnessione tra la macchina e l'umano. Appunto, noi stiamo ascoltando adesso The Kraftwerk, Man Machine, e quindi questa interconnessione che permette, adesso da un punto di vista sociopolitico, di appropriarsi dei mezzi di produzione e di immaginare, non solo di immaginare un mondo nuovo, ma anche di attuarlo tramite spazi di socialità nuovi e spazi nuovi di resistenza. Invece stiamo ascoltando l'altra grande influenza di cui abbiamo già parlato, ma di cui possiamo adesso parlare da un punto di vista musicale, che è quella appunto di George Clinton con i Parliament. Non è scontato ragionare e realizzare quanto la techno e quindi poi tutta la musica elettronica sia stata influenzata dal funky, però è in realtà un c'è un legame diretto, prima di tutto per la questione dell'immaginario. Abbiamo già raccontato prima quanto George Clinton facesse sua una visione afrofuturista della propria identità e della propria musica, ma inoltre nel funky con George Clinton già abbiamo presente questo utilizzo di tecnologie che vengono incorporate e unite alla musica acustica, nuovi ritmi, nuove melodie. E soprattutto un'altra cosa molto interessante, che è un nuovo approccio di fare musica collettivo e comunitario, in cui per la prima volta forse vengono formati dei veri e propri collettivi che poi rilasciano musica insieme, come era l'orchestra di San Ra, come sono i Parliament e i Funkadelic di George Clinton, e come saranno i Belleville Tree, di cui ci parlerà Lorenzo tra poco. Allora, prima di parlare dei tre di Belleville, The Belleville Three, secondo me è necessario fare un passo indietro e ascoltare un brano che ha segnato proprio la storia della techno di Detroit. È identificato tra uno dei primi, che è Cybotron, Alleys of Your Mind. Where is your sense of time? Allora, questa era Alice of Your Mind di Cybotron. Chi erano Cybotron? Cybotron nasce dall'incontro tra Juan Atkins e Rick Davis e creano una band che, come potete sentire, fonde sonorità electro-funk, simili a quelle che descrivevi prima, tematiche fantascientifiche. Teniamo conto che questo è uno dei pochi brani con proprio delle lyrics, con un testo apertamente fantascientifico, perché poi tendenzialmente la techno di Detroit perde l'uso del testo così come fanno Cybotron. E le riflessioni dei testi, il testo è completamente distopico ed è una riflessione sulla società a partire da uno scenario, cioè un approccio distopico e la centralità della tecnologia come forma di controllo. E sono ispirate agli scritti di Alvin Toffler, come emerge in tante interviste. Questi Cybotron producono due 45 giri, Alice of Your Mind e Cosmic Cars. Poi firmano nell'83 per un'etichetta, Fantasy Records. Però è stato il loro terza uscita, Techno City, che ha fondamentalmente coniato, determinato appunto la nascita del termine come lo conosciamo oggi, ed è per molti critici l'esempio più completo della loro visione. Techno perché Techno City, e il testo dice "Welcome to Techno City, you will never want to go away". E di questo ne parla un giornalista del The Guardian che appunto ricostruisce anche la storia, John Savage, vi consiglio di leggerlo. L'immaginario quindi di partenza è quello di una Detroit post-industriale cibernetica piuttosto che di una galassia lontana, quindi anche questo è un tema interessante poi da esplorare, cioè c'è una sorta di qui e ora, un qui e ora cibernetico, un qui e ora un po' che adesso potremmo chiamare società della sorveglianza, no? E l'obiettivo concettuale che Atkins suggerisce in un'intervista è proprio di creare, cioè diciamo la soluzione a questa società è di creare un'interfaccia tra la spiritualità degli esseri umani, quindi ritorna un po' alla mitologia, la cosmologia afrofuturista, e la matrice cibernetica, quindi il ruolo della tecnologia. Alice of Your Mind è dell'81, nello stesso anno esce Charivari di A Number of Name, che sonoricamente è simile, ma emerge da un contesto culturale diverso, che è un po' lo stesso che condividono i Belleville Three, ed è il contesto delle feste liceali a cui loro partecipavano, cioè feste che la middle class nera dei sobborghi organizzava proprio con un tentativo di distinzione, no, alla Bourdieu, cioè una distinzione proprio dalle pratiche, dalle forme di consumo della working class nera, e avevano un obiettivo marcatamente aspirazionale. Quindi queste feste trovavano come riferimento culturale simbolico l'Europa. E Charivari, infatti, tra le lyrics, cioè il testo è diversissimo da Alice of Your Mind, perché parla di glamour, parla di Europa, parla di brand, e quindi produce un'altra versione di fuga, una fuga verso l'Europa. In queste feste si incontrano Derrick May, Juan Atkins e Kevin Saunderson, fondando appunto i tre di Belleville. Prima nascono, vabbè, come DJ, come sotto lo pseudonimo Deep Space, suonavano a quelle feste, ma poi iniziano a produrre assieme. Fondamentalmente iniziano quello che sarà una storia molto, come dire, molto poco conosciuta all'esterno degli studi sulla musica elettronica, ma particolarmente significativa per le caratteristiche che prenderà. Prendo giusto il gancio un attimo per parlando appunto di questo passaggio dalle feste allo studio, per condividere una riflessione che fa Code Vash, un critico musicale, che ci racconta che in quel momento, per la prima volta, non per la prima volta, ma in quel momento, diciamo anche all'interno di un contesto sociopolitico occidentale, le persone afroamericane hanno rifiutato l'idea di una musica nera come una musica urbana, che è ancora adesso presente. Ci si immagina il rap, ci si immagina una musica che arriva in strada o al massimo delle feste. E secondo me è una riflessione molto interessante il fatto che loro iniziano a costruire dei nuovi immaginari prendendo sul serio questi immaginari da un punto di vista politico e anche da un punto di vista di produzione musicale, quindi facendo musica in studio, sì, nel caso di Belleville Tree, ma già prima Sarra e Parliament Funkadelic facendo una musica da teatro, quindi portando anche attraverso la loro performance su un palco ben specifico tutta la loro rivendicazione sociale e immaginifica. Assolutamente. La cosa importante che hai anticipato è che la techno di Detroit nasce in un contesto di autoproduzione, quindi i dischi venivano autoprodotti e poi vedremo proprio una ramificazione, cioè Atkins apre Metroplex nell'85, che è un'etichetta che poi avrà un grande successo e durerà decadi. Kevin Saunderson apre KMS e Derek May apre Transmat. Quindi queste sono proprio le caratteristiche: autoproduzione, indipendenza e immaginario comune, con caratteristiche che poi evolveranno, come vedremo. Un aspetto fondamentale è il ruolo delle radio, e in particolare di un DJ che si chiamava The Electrifying Mojo, che ha praticamente avuto il ruolo di tastemaker, cioè ha prodotto un gusto condiviso, importando musica dall'Europa e suonandola. C'è una storia bellissima, per esempio l'italiano Alexander Robotnik veniva suonato da The Electrifying Mojo, non so se lo conoscete, ma è un produttore di musica elettronica che ha una storia e insomma è fantastico. Testi in francese, Kraftwerk veniva suonato da The Electrifying Mojo, Gary Numan, Ultravox, The Human League, Telex, New Order, Depeche Mode. Questa cultura condivisa era legatissima, e lo vediamo in una storia, alla cultura automobilistica. C'è Moodyman, che è un produttore e DJ iconico di Detroit, dice che nel programma che di Electrifying Mojo teneva, che si chiamava Midnight Funk Association, invitava gli ascoltatori a spegnere e accendere i fari della macchina, e capitava di attraversare strade, no, vialoni di Detroit, e di vedere nello stesso momento questa sincronizzazione di luci che avveniva proprio quando il DJ chiedeva di farlo, no? E questo fa parte proprio della anche cultura visuale, se vogliamo, di quel momento. E nella stessa radio ci sarà poi Jeff Mills col alias The Wizard, e la caratteristica è proprio mettere assieme generi diversi, techno, hip hop che stava emergendo, electro, europea e non, e fondamentalmente la techno di Detroit è stata promossa da questa radio. C'è un episodio di Juan Atkins in cui ci dice che far suonare Alice of Your Mind, che abbiamo ascoltato prima, non è stato difficile, perché è bastato cercare il DJ di Electrifying Mojo in una sala giochi che frequentava, e ha proposto a loro una sfida a Cybotron. Ha detto: se io faccio suonare il vostro disco in contemporanea a un disco reggae, perché andava a periodi, no? C'era il periodo reggae, c'era il periodo... Se il vostro disco è più potente, allora lo suonerò. E così hanno fatto in studio, poi non alla sala giochi, e da lì la radio appunto suonava Alice of Your Mind. Altre due... come dire, due riferimenti per mappare proprio gli intermediari di questo genere emergente. Il primo è in Europa, è la compilation di Rushton, insomma non mi ricordo il nome, ma si chiama Techno, The New Dance Sound of Detroit, che fondamentalmente dà un nome, la compilation ha un ruolo proprio di consacrazione, no? Si parla di un nuovo genere quando c'è fondamentalmente una raccolta. E con la parola techno viene popolarizzato il termine. E ovviamente c'erano brani di un produttore di Detroit, anche se questa denominazione poi ha creato una serie di dibattiti sulla genealogia, dove è nata prima la techno, no? Ne parleremo poi alla fine. Un'altra cosa affascinante è che se prima Motown spingeva la musica facendo ballare e cantare gli artisti in televisione, con la scomparsa di Motown vanno in televisione i produttori di musica elettronica, quindi con spettacoli come The Scene o The New Dance Show, c'era lo stesso format di Soul Train, quindi si cantava, si ballava, ma c'erano sfide di danza proprio sulla musica elettronica. Ci sono dei video stupendi su questo. E quindi le release, le uscite di Techno di Detroit potevano essere... venivano mostrate in televisione, quindi diventavano parte proprio della cultura, non solo locale, ma nazionale, come aveva fatto Motown. Magari prima di parlare degli sviluppi, lasciamo... introduciamo il tema di Drexia, o vogliamo... perché è contemporaneo agli sviluppi che vediamo. Sì, il tema di Drexia in realtà lo terrei per ultimo, per un racconto ultimo sull'utopia. Si tratta di una seconda ondata della musica techno di Detroit che tira un po' le fila di tutto il discorso che abbiamo fatto finora. Quindi lo terrei per la fine. Perfetto. E allora, ecco, appunto, senza nessuna pretesa di esaustività, possiamo dire che ci sono state diverse wave di musica di Detroit. Un nome importantissimo è Underground, The Underground Resistance, che è stata fondata nel 90 da Mad Mike Banks, Robert Hood e Jeff Mills. È un collettivo che condivide le stesse, diciamo, infrastrutture, quindi label, come la prima ondata di Detroit, ma un immaginario di resistenza e di rivoluzione, che è sicuramente paragonabile a quello precedente, ma c'è un brano, per esempio, Scan 7, che poi suoneremo nel DJ set, iconico, che dice "If you can hear this, you are part of the resistance", cioè se puoi sentire questo brano sei parte della resistenza. The Underground Resistance ha avuto varie, come dire, come i gruppi canonici, ha avuto vari membri che si sono susseguiti. Jeff Mills, Robert Hood, appunto nei primi anni 90 sviluppano un suono di Detroit più minimal, che forse è quello che è rimasto più che è stato più popolarizzato perché è stato suonato molto in Europa. Quindi primi anni 90 la musica techno ritorna in Europa, come ritorna in Europa con i club berlinesi, cioè c'è questa alleanza. Ci sono anche delle compilation, per esempio, che mettono assieme, c'è un'alleanza tra la techno che emerge come musica della caduta del muro di Berlino, fondamentalmente, cioè che arriva al Berlino Est, nelle warehouse abbandonate, nelle stesse modalità fondamentalmente di Detroit, e nei club che emergono in quegli anni, Tresor prima di tutto, e a Berlino il suono prende caratteristiche diverse, chiaramente si mischia, si confonde, si sviluppa, si avviluppa con quello locale, e da lì, ecco, appunto, non abbiamo promesso genealogie ipercontemporanee, ma da lì la techno diventa un fenomeno globale, al punto che adesso la storiografia della musica elettronica, da una prospettiva anche intersezionale, no, come citavi prima, si chiede se questa identità innanzitutto si chiede se la tensione con l'Europa che ha caratterizzato la nascita di questo genere è qualcosa su cui bisogna di nuovo riflettere. Cioè, ci sono stati momenti di riappropriazione, no, della radice nera della musica di Detroit, momenti di allontanamento, come prima spiegavi. E adesso invece è un genere consolidato che noi non riusciamo più a identificare con le origini, perché poi è emersa in Inghilterra, è emersa in Francia, cioè è veramente un fenomeno transnazionale che pone grandi, e torniamo all'inizio, pone grandi problemi proprio sul dance floor, no? Come dicevi tu. Sì, assolutamente, un dance floor che è diventato sempre più, anche in un certo senso, commercializzato, e che quindi si dimentica di queste origini politiche e di queste, come abbiamo detto tante volte, aperture di immaginari. E quindi... tra l'altro, tra i vari studi che abbiamo letto, uno faceva molto riferimento all'idea dell'affect, questa affettività che in filosofia e in sociologia si riferisce non tanto a un'affettività emotiva, anche quello, quanto alla capacità di toccare e toccarsi. Questa capacità di cui spesso situazioni di musica elettronica commercializzata contemporanea di cui ci dimentichiamo il fatto che gli inizi di questa musica sono degli inizi che hanno toccato la politica, hanno toccato la società e hanno toccato le menti e la loro capacità di aprirsi ed immaginare un nuovo, un diverso. Sì, magari prima di passare al caso studio chiudo dicendo che appunto è interessante studiare queste configurazioni soprattutto perché come dire, la techno è un mondo che non gode particolarmente di una semplificazione, perché non è soltanto musica ma è è come un albero che ha diverse radici, no? che si legano l'una con le altre, per cui il nostro tentativo di oggi è quello proprio di creare appunto dei percorsi di ascolto che suggeriscano anche magari anche a livello pratico delle nuove scelte musicali, delle cambiare club, andare a un rave, cose simili. Ecco. Sì, decisamente. Niente, anche un po' l'idea generale, la mia idea di musica come una pratica che appunto ci tocca e che ci apre sempre a nuove idee, nuovi immaginari, nuove chimere, è un'idea di cui spesso ci dimentichiamo se siamo nel club sbagliato soprattutto. E ovviamente gli immaginari che verranno aperti a me mentre ballo o da me mentre suono non saranno mai, neanche minimamente, o minimamente forse sì, però non saranno pienamente riconducibili agli immaginari aperti a Detroit negli anni Ottanta. Però forse andando a riconoscere quella cosa ci aiuta poi ad aprirci a questa possibilità nel momento in cui ascoltiamo musica. Nel momento in cui ascoltiamo qualsiasi musica, ma in particolare un genere che è nato con questa intenzione. Allora, finiamo raccontando di Drexia, un gruppo musicale attivo verso la fine degli anni Ottanta e poi soprattutto negli anni 90, anche all'inizio degli anni 2000, prima Detroit e che poi si è spostato, in realtà è arrivato anche in Gran Bretagna e anche a Berlino, appunto con l'etichetta del famosissimo club Tresor. Iniziamo con un ascolto di una loro traccia che è Bang Bang. Allora, i Drexia sostanzialmente riuniscono tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Sono un duo di cui in realtà non siamo sicuri dell'identità. Un membro quasi certamente riconosciuto è James Timpson, probabilmente l'altro è chiamato Gerald Donald. In ogni caso sono attivi appunto a Detroit negli anni 90, hanno tante collaborazioni tra cui con anche gli artisti di Underground Resistance. Sono un duo che fa un ibrido di musica elettronica e musica techno, che viene definita da Stinson come un viaggio infinito nello spazio interiore per trovarne la bellezza e portarla fuori. Trovo molto interessante il fatto che è un viaggio nello spazio interiore di chiunque ascolti, e unire questa cosa all'idea che loro non sono conosciuti, che quando suonavano indossavano delle maschere, che hanno rilasciato pochissime interviste e che quindi hanno creato ancora una volta un vuoto di pensiero, di immaginario, perché non si sa chi sono, quello stesso vuoto che possiamo in qualche modo associare al vuoto distopico di Detroit degli anni Ottanta, quindi un vuoto sulla quale l'ascoltatore è spinto a costruire la propria idea di un altrove, di un'utopia. Drexia, il loro nome, deriva da un fumetto, da un artista di Detroit chiamato Abdul Kadim Hagg. Un fumetto che racconta la storia di un'Atlantide nera. Cioè, questo fumetto si immagina che durante la deportazione degli schiavi dall'Africa verso le Americhe, quello che è successo, cioè che le donne incinta sono state buttate giù dalle navi perché non erano abbastanza sane per essere usate come forza lavoro e occupavano spazio e pesavano. E il fumetto va a immaginarsi che i feti portati da queste donne sono riusciti in qualche modo a sopravvivere e nelle acque degli oceani sono andati a costruire, a ricostruire un'Atlantide nera, che nel fumetto viene appunto chiamata Drexia. Quindi quello che fanno i Drexia è costruire per tutta la loro carriera musicale un immaginario sonoro che si costruisce su questo mito. Viene detto che se Underground Resistance ha popolato le feste di sottotesti politici, Drexia invece ha aggiunto un rimando costante a quella che era la schiavitù, quindi al, diciamo, il peccato originario degli Stati Uniti. Come fanno questa cosa? Abbiamo detto, non rilasciano interviste, non fanno performance, quindi non c'è tutto quell'aspetto performativo che abbiamo trovato nel funk di Parliament, nel jazz di San Ra. Lo fanno attraverso le quarte di copertina dei CD e gli LP che rilasciavano, attraverso i lyrics nelle canzoni e soprattutto attraverso una sonorità che distorce i suoni e rimanda costantemente a una sonorità liquida, a una sonorità oceanica quasi, in qualche modo, come possiamo ascoltare in questa traccia che è chiamata Dehydration, quindi deidratazione. È quindi una sonorità che utilizza tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato finora, tecnologici, tutti i synth, tutta la distorsione dei suoni, per andare a rendere il tutto fluido e fluidificato. Ovviamente un altro modo di costruzione di questo immaginario sonoro sono letteralmente i titoli delle tracce che rilasciano, come questa chiamata Deidratazione. L'album più importante per quanto riguarda la costruzione di questo immaginario è chiamato The Quest, quindi La Ricerca. È un album da un punto di vista di sperimentazione musicale pazzesco, quindi consiglio a tutti il suo ascolto. E è molto interessante che le note di copertina contengono una mappa del mondo con quattro direzioni. Una prima direzione traccia la tratta degli schiavi tra il 1655 e il 1867. Una seconda traccia la rotta migratoria delle persone nere, dei afrodiscendenti, dalle campagne verso le città del nord, quindi verso Detroit, negli anni 30 e negli anni 40. Una terza direzione racconta che la techno che viene creata in quegli anni a Detroit lascia gli Stati Uniti per diffondersi in tutto il mondo nel 1988, questo è l'anno che loro individuano. La quarta direzione invece viene individuata come il viaggio verso casa, cioè verso il futuro. Quindi troviamo di nuovo quell'idea afrofuturista delle persone afrodiscendenti come dirette discendenti degli alieni e che saranno le prime a ritornare in questo spazio utopico. C'era anche appunto nelle note di copertina dell'LP, c'era anche un saggio accreditato a uno scrittore sconosciuto che esponeva la storia delle origini degli abitanti di Drexia. E il saggio dice così: i Drexia respirano acqua, sono discendenti mutanti acquatici di quelle sfortunate vittime dell'avidità umana? Sono stati risparmiati da Dio per insegnarci o per terrorizzarci? Sono migrati dal Golfo del Messico al bacino del fiume Mississippi e poi ai grandi laghi del Michigan? Camminano in mezzo a noi? Sono più evoluti di noi? Lo sono più evoluti di noi? E perché fanno la loro strana musica? Qual è la loro ricerca? Queste sono molte delle domande e non sapremo mai come risponderle. Quindi di nuovo abbiamo tante domande, nessuna risposta, ma la possibilità di aprire immaginari. Vorrei quindi concludere leggendo un breve testo che è stato scritto da una ricercatrice in sociologia, di studi di utopia, Arianna Prete, che tra l'altro mi ha dato lo spunto per questa puntata, facendo una ricerca proprio su The Quest di Drexia. E quindi mi piace riportare un estratto integrale suo. Arianna ha scritto: come fanno i membri del progetto di elettronica Drexia, nato a Detroit nel 1991, spostando l'attenzione dallo sguardo all'ascolto, verso ciò che la musica può fare nell'aiutarci a riplasmare le nostre percezioni e ad ampliare gli orizzonti dei nostri immaginari, l'album The Quest dà vita a un'utopia sonora in cui i feti mai nati delle donne gettate dalle navi schiaviste prendono vita come creature ibride sui fondali dell'oceano. Nasce così l'immaginario del Black Atlantic, che si riappropria degli abissi come di un luogo di alterità e di nuove possibilità di vita attraverso sonorità liquide e acustiche aliene. Approcci come questi spalancano le possibilità di immaginare nuovi corsi della storia, nuovi futuri e nuove vite per i soggetti rappresentati. Riappropriandosi di quelle narrazioni dominanti che vorrebbero schiacciarne l'esistenza attraverso rappresentazioni disumanizzanti ed elaborando i traumi di collettivo attraverso un pensiero speculativo che guarda oltre le narrazioni dominanti. Quindi parole di chiusura, le nostre parole di chiusura verranno accompagnate dall'ultima traccia dell'album The Quest, The Last Transmission. Allora, volevo ringraziarti per questa opportunità, ringraziare anche Arianna, che devo dire si sta occupando di un tema secondo me importantissimo, secondo noi importantissimo. E oggi abbiamo visto come la techno di Detroit è nata come una risposta a uno spazio vuoto, è nata come una critica sociale, è nata però in spazi specifici e ha attraversato varie dimensioni, sia quella temporale, restando, evolvendo, sia quella appunto geografica, arrivando a noi, tornando, no? Avanti e indietro dall'Europa, ma anche in altri contesti che forse devono essere ancora studiati. Quindi questa puntata è anche un invito a fare più ricerca su questi temi che sono importantissimi da un punto di vista proprio sociologico, antropologico, utopico. E la ricerca sugli immaginari continua, perché lo possiamo anticipare, ma la prossima puntata sarà su una corrente, su dei sviluppi paralleli della musica elettronica che è la house nata a Chicago e le sue ramificazioni queer, in onore di Frankie Knuckles e di tutta la cultura delle warehouse che sono, come dire, che hanno permesso quel tipo di musica, che è diversa, come vedremo, da quella di Detroit. E niente, direi che non posso che ringraziarti e ci vediamo alla prossima puntata. Ah, ricordo a chi non è ancora arrivato in Exalge che dopo suoneremo fino a tarda notte è un mix di techno di Detroit, electro, vecchia, nuova, contemporanea. Io l'avevo definito un DJ set post-utopico, cyberfunkettoso, ma Zaffa mi ha impedito di tenere questa descrizione sugli atti scritti, quindi a me piace l'ascolto, piace l'oralità, ve la lancio qua così. Andava detto. Andava detto. Se volete, il DJ set tra poco si inizia. Yes. Grazie, alla prossima. Alla prossima con le ramificazioni queerose e queer dell'House in Chicago. Ciao. Ciao.